24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Il 30 agosto 2013, dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente Obama. Ho deciso che gli Stati Uniti dovranno intraprendere azioni militari contro gli obiettivi del regime siriano. Ma resta solo. L'8 settembre Papa Francesco lancia il suo messaggio contro questa guerra. È davvero una guerra per problemi? O è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? 3 giorni dopo, Vladimir Putin scrive una lettera direttamente al popolo americano. La pubblica il New York Times. Bisogna interrompere l'uso del linguaggio della forza e tornare alla diplomazia. E la Russia così ritorna centrale nella diplomazia mondiale. Dunque, un anno fa, più o meno in questo periodo, abbiamo sentito Obama voleva bombardare la Siria di Assad. Poi Putin prima, il Papa poi, con la giornata di digiuno, hanno fatto desistere il presidente americano. Adesso ha iniziato i bombardamenti del califfato dell'ISIS proprio in Siria e avendo preventivamente avvisato Assad. E intanto continua la strategia della decapitazione dell'ISIS, mentre Obama invita l'Islam moderato a unirsi nella caccia ai jihadisti. Germana Tappero Merlo, che è esperta di sicurezza internazionale. Obama ha sentito, sperava che la diplomazia vincesse, invece la storia di oggi ci dice che non è andata così. Che cosa è andato storto? Per quanto riguarda l'ISIS, sicuramente c'è stata una sottovalutazione del fenomeno ISIS dovuta sicuramente a carenze di intelligence. Quindi l'ISIS alla fine si è rafforzato sia nello scenario siriano che in quello iracheno. Ecco, comunque l'ISIS per ora viene solo bombardata dall'alto. Non si è mai vinto nessuna guerra soltanto coi bombardamenti, è così, no? Sì, infatti, una sola arma non basta, non è sufficiente. Quindi Obama però ha detto niente fatteria, e allora? Ma in realtà esistono, c'è supporto di forze speciali, sia ai Peshmerga che alle forze regolari irachene, quel poco che è rimasto, nelle operazioni soprattutto di... per quanto riguarda la conoscenza del territorio, quindi preparano le operazioni del Peshmerga, quindi un 200 elementi di forze speciali in realtà ci sono. Sicuramente sarebbe necessario intervenire in maniera più massiccia. L'ISIS ha cambiato strategia però rispetto al Qaeda completamente, non solo terrorismo ma costruzione di uno Stato. Questo cambia tutto lo scenario? Certamente cambia lo scenario, anche perché l'ISIS non deve essere considerata una forza terroristica quanto una forza combattente. In più il califfato la proclamazione almeno del califfato realizza politicamente il più sacro del jihad, nel senso che permette e dà un obiettivo politico concreto che non è il progetto così aleatorio che era l'abbattimento del nemico, combattere il nemico lontano, che era di Al-Qaeda. Quindi la novità assoluta dell'ISIS qual è? Sicuramente allora innanzitutto anche come formazione combattente, potendo disporre anche di elementi come i famosi militari, 23 militari del vecchio regime di Saddam Hussein, quindi erano elementi della Guardia Repubblicana e che comandavano sia le forze di intelligence che le forze terrestri, quindi è forte anche da questo punto di vista. C'è conoscenza. Uomini di Saddam Hussein che operano con l'ISIS, sono passati all'ISIS, e anche perché delusi dalla politica del governo dell'ex Maliki, che comunque era pro-sciita, di conseguenza c'è stata una coalizione di forze e di militari sunniti che si sono affiancati all'ISIS. Ecco, però hanno anche una modernità assoluta di organizzazione, del consenso e anche del loro finanziamento. Sicuramente l'ISIS è forte non soltanto per quanto riguarda si sanno i rapimenti, le estorsioni, anche la vendita di petrolio al mercato nero, perché loro controllano dei pozzi petroliferi, ma anche di merchandising vero e proprio. Sono riusciti a proporre sul mercato locale e ottenere grandi finanziamenti attraverso per esempio la vendita delle loro bandiere, ma ultime novità a riguardo anche la vendita dei passaporti dello Stato Islamico, cioè comincia a esserci anche un mercato da parte dell'identità che è quello che l'appeal forte sia per questi giovani combattenti, ma anche per tutta una popolazione che si riconosce in questo progetto. Questa è la grande importanza. Quindi popolazione non necessariamente araba. Non necessariamente araba, infatti le componenti non soltanto combattenti, pensiamo ci sono dei ceceni, ci sono dei belgi, ci sono francesi, ci sono tedeschi, anche italiani. Ma anche quei quel killer che ha sgozzato i giornalisti, sì, aveva una formazione, un accento, un modo di, certo, parlare che richiama il rap. Certo, quasi. Infatti, allora qui subentra proprio la strategia anche di comunicazione dell'ISIS, che è esattamente l'opposto di quella di Al-Qaeda, nel senso che è molto più moderna, con dei ritmi proprio per il richiamo che vuole avere nei confronti delle giovani generazioni e anche soprattutto quelle abituate a una certa ritmicità, come nel caso appunto del rap. Di conseguenza in questo c'è tutta una pila che porta anche alla grande frattura poi con Al-Qaeda, perché Al-Qaeda è vecchia tra virgolette come organizzazione, come modalità di comunicazione. Sono usciti in contemporanea, oltre al video appunto dello sgozzamento di Sotloff, anche quel video di Al-Zawahiri che affermava la nascita di un nuovo Al-Qaeda nel sud-est asiatico, e si vede proprio i due mondi completamente diversi. Proprio da quel punto di vista. E questo appeal forte che noi vediamo dell'ISIS sta facendo proselitismo in altre aree, come per esempio nel Nord Africa, questo nuovo gruppo Khorasan che si è staccato dall'Al-Qaeda in Maghreb proprio per affiancarsi all'ISIS, ma perché c'è questo appeal molto quindi forte. È una guerra che è partita tardi. È una guerra che è partita troppo tardi, troppi tentennamenti, dovuti a motivi in Siria più di carattere geopolitico e a mio avviso in Iraq di non conoscenza della realtà. Non si è capito quello che stava succedendo in Iraq, perché solo l'anno scorso abbiamo avuto più di 10.000 morti in attentati terroristici da parte dell'ISIS, e una buona intelligence questo avrebbe dovuto sottolineare. Quindi è mancata l'integrità. Sicuramente, troppa tecnologia e poca conoscenza del terreno. Assolutamente è necessaria una nuova forma di intelligence che combini i due elementi, alta tecnologia che è necessaria, ma anche maggiore conoscenza sul terreno, con elementi sul terreno e quindi conoscenza delle realtà locali, della cultura. Solo in questa maniera io penso che si possa capire e forse risolvere, perché a mio avviso siamo solo all'inizio di un percorso molto complesso. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco Pietrangelo, ma la composizione di questa ISIS mi sembra molto gruppi combattenti, insomma molto strana, o no? È così strana che ci deve costringere ad una domanda più che una riflessione. Posto che la maggior parte di questi sono cosiddetti ribelli, cosiddetti combattenti, rapper, come diceva prima Tapero Merlo, è gente che viene da Occidente e va lì a fare il suo lavoro da macellaio, e siccome sappiamo come andrà a finire che questa fase finirà come è finita quella di Al-Qaeda, adesso finirà anche l'ISIS, la domanda che dobbiamo porci è: che cosa succederà quando ritorneranno in Occidente? Perché tutti sti califfi, lo vogliamo dire una volta per tutte, sono stati allevati, cresciuti, sollecitati e solleticati perfino dall'Occidente, perché sono parenti dei ribelli siriani che tanto facevano spellare le mani ai giornali occidentali, sono parenti pure della cosiddetta società civile maghrebina che ha perpetrato e consumato la tragedia nel Maghreb, ricordiamo il caso libico, ed erano quelli che facevano spellare le mani ai filosofi in camicia bianca e forfora come Bernard Lévy dalle colonne del Corriere della Sera in Italia, lo leggevamo. Bene, ora poniamoci questa domanda: quando torneranno qui, cosa succederà? Domanda molto interessante, Mario, vero? Sì, intanto concordo con Pietrangelo sulla, sulla cattiva insalata che hanno preparato quando appunto si inneggiava, e molti abbiamo sbagliato, devo dire, alle rivoluzioni, alle primavere arabe, no? Adesso il vero tema comunque è quello della campagna militare, parliamoci chiaro, cioè è qua il passo è stato fatto per quanto riguarda i bombardamenti aerei. Manca in realtà una strategia sul terreno. Questa non si vede, non ha detto essere. Giustamente a Tappero Merlo, no? L'ha ricordato, le campagne aeree non ti fanno vincere le guerre. No. Devi mettere i soldati sul terreno. Finché non vedo questo, bisognerà vedere quali soldati andranno sul terreno. Finché non vedo questo, è una guerra incompiuta. Massimo da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica, buongiorno. No, volevo capire una riflessione, ecco. Sì. Cioè, dal momento in cui si sa che l'ISIS si autofinanzia attraverso la vendita di petrolio nel mercato nero, com'è che uno Stato, un governo, una struttura come quella di intelligence, come quella americana, che riesce a tenere sotto controllo praticamente tutte le comunicazioni del globo, non riesce a capire a chi venga venduto Bella domanda. Petrolio? Ecco, credo che sia questa una bella domanda. Posso dare una risposta? Rapido. Com'è che un gruppo di aerei è finito sulle Twin Towers e sul Pentagono? L'intelligence è piena di buchi, questa è la realtà. Solo? Mettiamola così. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Quest'anno abbiamo raggiunto un risultato storico. Per la prima volta nella storia delle statistiche turistiche moderne, i due mesi clou dell'anno, luglio e agosto, hanno rispettivamente chiuso con -0,6 e -0,2. Ecco, dottor Nucara, direttore generale di Federalberghi, ma è solo colpa del tempo? No, purtroppo no. Il maltempo ci ha messo la sua, il maltempo reale, che purtroppo c'è stato, e il maltempo virtuale, a volte in maniera malaccorta, amplificata da alcuni siti che fanno pubblicità scandalistica, ma in realtà ha pesato molto anche la crisi che morde sulle tasche delle famiglie. Ecco, ma non è che nei momenti di crisi come questi bisogna investire nei servizi, cioè crisis opportunity, cioè trasformare la crisi in fantasia? No, sicuramente c'è lo sforzo, tanto delle famiglie che si industriano per venirne a capo, quanto delle imprese che cercano di dare il servizio migliore, inventando nuove formule, contenendo i prezzi. Noi per il terzo anno consecutivo siamo andati giù con i prezzi rispetto agli anni precedenti, però se nelle tasche delle persone i soldi non ci sono, è chiaro che c'è una stretta nei consumi e la stretta si sente, riguarda il turismo. A volte viene anzi sacrificato prima degli altri. Ecco, 30 anni fa eravamo primi in termini di fatturato e visitatori nel settore turistico. Oggi siamo terzi, con 47 milioni di turisti e 44 miliardi di dollari di fatturato nel 2013. Siamo diventati terzi spodestati da Francia e Spagna. È un processo irreversibile? Assolutamente no. Io vorrei dire anche che le statistiche si possono leggere in tanti modi diversi. Quindi a volte questa eccessiva enfasi sul numero degli arrivi andrebbe un po' corretta e calmierata. Negli arrivi che la Francia strombazza sono anche... Ma sono dati garantiti, questi che sono dono. Dati sbagliati, però. Sbagliati, dottor Nucara. Lo dico con una battuta. La Francia conta gli arrivi, in realtà conta tanti. Quindi se un camionista rumeno porta un carico di fagioli in Spagna, siccome passa la frontiera francese, per loro è un turista. Io sono andato in viaggio di nozze all'estero, ho fatto scalo all'aeroporto Charles de Gaulle, quindi non ho neanche un caffè in Francia. Senta, dottore, dunque abbiamo detto che adesso siamo terzi, la Francia è diventata prima, probabilmente anche perché i servizi sono migliori. Senta cosa ci ha raccontato Franco Bonprezzi, un collega giornalista disabile, testimone diretto nella sua esperienza di vacanza della differenza tra Francia e Italia. Mi racconti la tua esperienza di quest'estate, Franco? È capitato che tutto è normalmente accessibile, cioè avevo accanto all'albergo un tram che mi consentiva di andare in centro città. Perché tu sei nella carrozzina? Io vivo in sedia a rotelle, sì, vivo in carrozzina, mi muovo in carrozzina con la mia compagna, ma in maniera totalmente autonoma, guido la macchina, insomma faccio tutte le cose il più possibile normali. naturalmente se trovo ostacoli tutto diventa complicato. Ecco, e lì non in Francia c'è una grande differenza fra quel... Molta cultura pratica, concreta, cioè le leggi non sono molto diverse da quelle italiane, ad esempio, solo che le applicano. Di fatto nella realtà quotidiana c'è soprattutto uno spirito di accoglienza, di attenzione, per cui nei luoghi, per esempio... Mi fai qualche esempio concreto di questa accoglienza? Un centro di attrazioni come quello di Vulcania, che è un luogo di istruzione sulla cultura dei vulcani, sì, per esempio, con attrazioni varie, tutto è previsto anche accessibile a persone con disabilità motoria, ma anche che non ci vedono, non ci sentono, oppure hanno problemi intellettivi, e se c'è qualche difficoltà c'è subito una persona che viene. Ecco, in Italia questo non lo trovi? No, si trova molto raramente, molto difficilmente. Cioè cosa manca soprattutto in Italia? In Italia manca una cultura diffusa dell'accessibilità come un diritto e quasi un dovere di chi fa turismo, di chi fa accessibilità. Ecco, ma per esempio gli alberghi francesi cosa offrono di diverso da quelli italiani? Beh, intanto sono più a buon mercato, cioè tu trovi stanze accessibili anche nei 3 stelle, nelle catene dei 3 stelle, dei 2 stelle. In Italia l'accessibilità alle stanze accessibili per persone disabili, ecco, quando dici quasi solo 4 stelle, 5 stelle. Ecco, quando dici accessibili vuol dire che cosa non può mancare in una camera d'albergo per rendere accessibile? Guarda, soprattutto è evidente che c'è la questione dell'accessibilità del bagno, dei servizi sanitari, dell'altezza del letto, la possibilità di muoversi negli spazi comuni, ma in realtà un albergo dovrebbe essere tutto accessibile dal parcheggio fino alle parti comuni, in maniera che ogni persona sia in grado di muoversi in assoluta libertà. In Italia, e niente, insomma, certo, paghi. Sto pensando a Expo a Milano, sono previsti nei 6 mesi di Expo più o meno 200.000 persone con disabilità provenienti da tutto il mondo. È chiaro che per alberghi, attività commerciali, ristoranti, negozi, bar, possono essere altrettanti clienti, ma come li accogliamo? Ecco, Bertolucci ha aperto una polemica fortissima a Roma col sindaco sulle condizioni di degrado delle strade. Ecco, lì a Milano state lavorando per l'Expo in questa direzione? Assolutamente sì, e i problemi non sono molto diversi. Oddio, l'acciottolato romano batte qualunque concorrenza. Certo. Ho visto il video di Bertolucci, bellissimo, chiaramente lui è diventato un testimonial eccezionale, ma anche noi nel nostro piccolo ci facciamo valere. C'è un programma di sbarrieramento di 10 itinerari turistici per Milano da qui alla primavera prossima. Bene. Speriamo di farcela. Comune e Regione collaborano con le associazioni, però bisogna metterci tanto entusiasmo e soprattutto Giovanni, tanta comunicazione attorno, anche i giornalisti possono va bene, fare e noi ci proviamo. Grazie. Grazie. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 se avete delle esperienze da raccontarci. Dottor Nucara, ecco, queste vacanze sono state completamente diverse dal punto di vista dei servizi che gli offrono gli alberghi, ma gli alberghi non di 4-5 stelle, ma di 2-3 stelle. Questo è un settore limitato, naturalmente, ma è il segno di un'attenzione diversa. Assolutamente, l'accoglienza deve essere accoglienza a 360 gradi. E fra l'altro non dimentichiamo che non c'è solo chi sta sulla carrozzella, a volte anche noi nella nostra quotidianità, naturalmente, perché acciaccati, un anziano con una valigia, una mamma con una carrozzella. Ecco, ma gli alberghi italiani, l'accessibilità delle città oltre che degli alberghi è un tema sul quale dobbiamo migliorare. Gli alberghi italiani, per l'obbligo normativo, ma anche oltre ciò che stabilisce l'obbligo, hanno dei requisiti minimi garantiti. Ecco, ma requisiti minimi garantiti che non sono rispettati, le leggi sono più o meno uguali in Italia e in Francia. Non commettiamo l'errore di essere, come dire, da italiani autoflagellanti. No, ma che autoflagellanti, però neanche troppo compiacenti con noi stessi. Bisogna essere rigorosi. Appunto. Se e allora voi cosa pensate? E tendere a migliorare. Come Federalberghi, avete delle direttive? Vi state dando delle strategie? Sì, assolutamente sì. Questo è partito giusto nel mese di luglio con il nuovo decreto quello chiamato Ask Bonus, che è stato, diciamo, è salito agli onori delle cronache per gli incentivi per gli investimenti che si faranno per il recupero dei beni culturali, c'è anche un pacchetto di interventi che è destinato al miglioramento delle strutture ricettive, quindi qualità migliore d'offerta, al miglioramento dei servizi informatici, quindi capacità di vendersi, perché oggi ci si vende soprattutto in rete, su internet. Ecco, ma in rete è credibile la vendita? No, perché noi abbiamo fatto, per esempio, l'anno scorso molte puntate su TripAdvisor e abbiamo scoperto molte magagne in quel metodo. Assolutamente sì. Immagini che al momento ci sono due istruttorie dell'antitrust aperte in Italia. Una riguarda proprio TripAdvisor, riguarda i grandi portali, Booking e Expedia in cima, ma questo non significa che bisogna aver paura della modernità. No, anzi, però bisogna che sia una modernità veramente al servizio del cliente. Ci vogliono strumenti per garantire i più piccoli di fronte a questi colossi, pensi, fatturati da 34 miliardi di euro. Certo. Ne dico una per tutti: lo stipendio direttore di Booking, quindi di una persona, è superiore al budget annuo del nostro ente nazionale italiano per il turismo. È chiaro che cittadini, singole persone, piccole imprese, perché le nostre sono soprattutto piccole imprese, si confrontano con dei colossi. Naturalmente. La logica non è della guerra a rete, la logica è di cercare... Della selezione della qualità, degli di costringere. Strumenti che ci consentono di rivedere problemi antichi, perché il problema della credibilità, della qualità... È antico, come il mondo. Antico, che si ripropone su un canale che parla oggi a 2 miliardi e 600 milioni di persone. Ecco, dottor Nucara, ma polemiche come quelle di questi giorni tra albergatori e affittacamere aiutano? No, le polemiche non aiutano mai. Noi diciamo una cosa molto chiara: stesso mercato, stessa rete. C'è posto per tutti, contro il mercato non si va, quindi se si affacciano nuove forme di ospitalità nessuno può immaginare di contrastarle, a condizione che queste forme di ospitalità rispettino le regole basilari. Ecco, ma perché quel settore... invece si creano problemi di concorrenza sleale. Certo, ma perché quel settore cresce e voi invece siete in crisi? Ma io potrei dire... Solo per via della concorrenza sleale? Potrei dirle perché alle abitazioni che vengono affittate, di cui si parla tanto, è stata levata l'IMU e agli alberghi è stata aumentata, perché questi signori non pagano tasse, gli quindi alberghi è un hanno la più alta del mondo. Quindi è un problema di concorrenza sleale, secondo lei? È un problema di condizioni diverse che pongono determinate imprese sul mercato, determinate offerte sul mercato in posizione di scorrettezza rispetto agli altri. Grazie. C'è anche un tema di tutela dei cittadini. A Barcellona pensi un po' sono scese in piazza esasperati, in parte anche per colpa di quei due maleducati italiani che si sono dati da fare a esibirsi nudi nei supermercati. Certo. Ma c'è stata il mese scorso una manifestazione a Barcellona contro il turismo cattivo, contro questo turismo che non è governato, che si espande ovunque, quindi schiamazzi nei condomini, bottiglie di alcol per le scale, per le strade e via dicendo. L'albergo, dal punto di vista, dà al cliente e al territorio una garanzia di controllo e di sicurezza che altre forme di accoglienza più estense non danno. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Tante i racconti di queste vacanze, di questi alberghi più o meno dotati di servizi, uno per tutti. Armando dice: direttore, io ho tre figli, difficilmente trovo addirittura sediolone negli alberghi e nei ristoranti. Insomma, è un tema che fa discutere. Intanto devo, prima della pubblicità, una rettifica sulle dichiarazioni di ieri di Luisa Ferrarini, vicepresidente di Confindustria. La produzione delle ceramiche Rosenthal in acquisto da paesi terzi non è mai stata marchiata Made in Germany. Questa è la smentita rispetto a quello che aveva detto la Ferrarini, una precisazione della casa. Mix 24. Paura che si perda. anche ieri sì. D'improvviso arrivò l'autunno e come prima cosa strappò tutti i capricci dai capelli della fata, la fata della caccia. E lei ebbe tanto da strillare, ma lui, inesorabile, incapace di perdono com'è, in un solo gesto cancellò tutti i colori allegri della stagione calda e le tolse il giallo acceso dei campi e poi, soprattutto, quel blu elettrico dei fiorellini che adesso se ne stanno asserragliati a capri finché dura. E autunno, che è severo e grave, ha consegnato guanti e cappelli alla fata, poi un pullover e un carico di legna per il camino. E la fata, bisognosa d'amore, forse molto più dei capricci, ha preso con sé i versi di Virgilio e ha nascosto l'estate nel cuore, impressionata da cotanto settembre. Premiata Forneria Marconi. Questa vorrei dire anche che adesso mi spiega Buttafuoco, questo è progressive rock. Bolle, cosa bolle nelle pentole di Mario Secchi? Allora, arriva dal CNT, governo transitorio libico, dopo un susseguirsi di voci. Da fonti del CNT anche altri due dettagli sulla fine del dittatore. Sarebbe stato trovato in una buca e prima di essere preso avrebbe urlato non sparate, non sparate. Allora, la Libia? Cari amici, la Libia è missing in no action, o in action, dipende da come si vede. Insomma, Obama ieri ha parlato alle Nazioni Unite, nell'introduzione della nostra puntata, appunto, di questo parlavamo. Finalmente anche un buon discorso, dove sono capite alcune cose, cioè che ISIS è il nemico, altre restano oscure, cioè quale sarà la strategia di guerra. Solo che mentre parlava, un gruppo di algerini vicini a ISIS sgozzava un francese inerme. E la Libia, ripeto, la Libia è la Woodstock del terrorismo, cari amici. Cioè, dopo le rivoluzioni arabe, e sono passati alcuni anni ormai, più di tre, e non c'è una soluzione, non c'è stabilità, è un luogo di assassinio seriale. Sono stati ammazzati qualche giorno fa due ragazzini, 17 e 18 anni, erano due importanti attivisti delle libertà, diciamo così, in Libia, per quanta libertà possa esserci in quel paese in questo momento, li hanno freddati. Assassini e rapimenti sono all'ordine del giorno, la Libia è uno stato fallito, è sparita dall'agenda internazionale, a parte qualche dichiarazione di buona volontà, diciamo così, dei leader europei, che sono i primi responsabili di questa cosa. Io mi chiedo, francesi in testa, io mi chiedo se è possibile continuare così per un paese che è il nostro, uno dei nostri principali fornitori di petrolio. Vediamo un po' che cosa capiterà in futuro. Non so se Buttafuoco ha un'opinione in merito. La mia opinione in merito è quella di affrontare la verità delle cose. Ed è quello che manca, perché ad ogni arma di distruzione di massa ne corrisponde un'altra più potente, quella che ci capita addosso a noi, è la menzogna. È così. Sono assolutamente non abbiamo d'accordo. Mai consapevolezza di quello che accade veramente. Mistificazione. È proprio così. E sarà colpa dei giornali. Sentiamo. Stampa quella roba e sei un uomo morto. Non si tratta più di me. Dovresti uccidere tutti i giornali del paese. Non sei forte abbastanza per farlo. Gente come te ci ha già provato. Col piombo, le prigioni e la censura. Finiscila con queste tirate da melodramma. Voglio una risposta. È la stampa, bellezza. La stampa. E tu non ci puoi far niente. La stampa ogni tanto sorprende, come il Corriere della Sera ieri con insomma, un bellissimo di questo editoriale. No, un po' delle tigri di carta. Parla. Allora, insomma, il quadro è chiaro: Renzi in America e fa l'americano. Ferruccio De Bortoli sul Corriere scrive e riscrive la storia del renzismo e fa il direttore del Corriere. E poi dal Lingotto serge una voce. Non lo leggo. Chi è? È Marchionne, che è il principale azionista poi del Corriere, e che dice: sostengo Renzi perché ha coraggio. Insomma, è una storia abbastanza... È una bella storia. No, abbastanza interessante, secondo me. È un bel plot tutto italiano con, diciamo, una versione anche un po' transoceanica, sì. Perché Marchionne poi ha questo modo di porre il dibattito in maniera un po' americana. Col maglione, Col maglione. Sì. Però, insomma, Che idea ti sei fatto, Minoni? Ma io mi sono fatto l'idea che c'è un riequilibrio di poteri in corso molto, molto violento. E tu, Pietrangelo? Che secondo me Ferruccio De Bortoli, come nella celebre scena della corazzata a Potionkin, di fronte a cotanta vergogna, qual è questa mistificazione della gloria renziana da tutti applaudita, ha detto, come Fantozzi nel film, è una boiata pazzesca. Ah. Un grande editoriale. Beh, di sicuro era una bella rasoiata, bisogna dire la verità. Salamini. Navi e poltrone fu un grande libro di Antonio Trizzino e fu un successo editoriale degli anni 60. Raccontava la disfatta militare italiana attraverso il doppio gioco dei vertici della Regia Marina. E adesso urge scrivere un nuovo capitolo. Ascoltate. Allora, parliamoci chiaro. Wow. Giovanni, tu che sei maestro di storia, diciamo, è l'Italia dell'8 settembre che non se ne va via. Mai. Gregorio De Falco, il capitano del tornabordo che avete sentito, è stato rimosso dal servizio operativo e spedito tra le scartoffie. Tutto questo mentre Schettino è salito in cattedra. E intervistato oggi da Repubblica, dice... Gregorio De Falco, questo paese è storto. Io mi permetterei di aggiungere, lo faccio io, che questa Italia non è una patria, è un calendario fermo a una sola data, 8 settembre, e con un solo santo, Badoglio. Tutti in piedi. Mamma mia, che ottimismo. Io sono dell'idea invece che Renzi è coraggioso e deve andare avanti, ma sono solo in minoranza. De Falco che è stato mandato le scartoffie, bruttissimo. No, ma infatti un uomo coraggioso, non vorrei che ci fosse un'analogia di finali. Scusa, adesso qui comando io, e come fai a non stare con De Falco? Fantastico, dai, va bene, su. Che quota rosa! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Devo restare o me ne devo andare? Non so, ma... sembra che Agnese, la nostra First Lady, abbia in testa questa canzone. Non so se avete notato che quando è in missione con il marito ha sempre il saluto incerto, questa mano che si fa avanti un po' sì, un po' no, sta tre passi dietro di lui. Ma soprattutto lui, caspita, non le fa mai un gesto complice, mai. Non so, un occhiolino si fa, dai, se ti capita qualcosa sempre in un occhio, ti capita un occhiolino, almeno così mi sembra scrutando le foto, io non li ho mai visti. Ad esempio, l'ultimo episodio in Silicon Valley che mi ha fatto un po' così arrabbiare, ritraeva Renzi con i Google Glass e Agnese in un angolo che lo guardava. Ma Matteo, vuoi far divertire un po' anche Agnese o no? Cioè, voglio dire, guarda Obama e Michelle, si abbracciano, si baciano, ridono. So come on, let me know. Mix 24. Di discussione sulla tua bolla sulla Libia, Lorenzo Ness ci scrive: ma non eravate tutti per bombardare Gheddafi? No, signor Lecci, non eravamo, basta risentire le puntate che abbiamo fatto. Lorenzo da Palermo scrive: ricordate Berlusca che si opponeva, perché non dirlo? Ecco, lo stiamo dicendo. E intanto il canzoniere. Ecco, mi inginocchio e dico ch'io non abbia più pace se la mia volontà con parole, pensieri e azioni ha offeso il suo amore, se gli occhi, le orecchie e tutti i miei sensi provarono piacere vedendo un altro uomo. Come sempre l'ho amato e sempre l'amerò con tutta la mia tenerezza, anche se ora egli mi scaccia da sé come una mendicante. La crudeltà può fare molto, ma la sua crudeltà può solo distruggere la vita mia, non diminuire il mio amore. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS se avete indovinato, telefonate oppure scrivete. C'è ancora una bolla? Sì, sentite qua. Abbiamo alzato la posta, ci siamo giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli, e adesso finalmente ci godiamo quello che ci spetta. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Allora, questo è Il Capitale Umano, sarà questo film a rappresentare l'Italia agli Oscar. Noi gli facciamo ovviamente tanti auguri e un grande in bocca al lupo. Speriamo che vada bene, che tutto sia a posto, l'avidità, il capitale, Marx è morto, viva Marx, ma il nostro eroe è sempre lì, ragazzo. Il resto è conversazione. Sempre Gordon. Sempre lui. Ci abbiamo ancora un salamino, Pietrangelo. Mentre aspettiamo. Chi non sa cucinare usa il dado per cercare sapore. Allora, una italiana, una australiana e una statunitense. Non è l'inizio di una barzelletta, è la luminosa idea di Ignazio Marino, il sindaco di Roma. Tutti in piedi. Quella di mettere una donna sul podio dell'Opera di Roma. Una soluzione ideologicamente corretta, il dado in cucina. E però ovviamente sono delle professioniste, le signore proposte nella terna. Giorno 2 ottobre il consiglio d'amministrazione dovrà dare una risposta, tra le quali anche la possibilità di chiudere una volta per tutte il teatro dell'Opera di Roma. Ma questa ideuzza non è altro che rivelatrice di un tic tipico dei rivoluzionari, quelli che i sindaci che non sanno amministrare, allora per riparare la situazione fanno un gay pride, per esempio, no? Così. Oppure ricorrono al dado in cucina. Certo, così. Non l'apoteosi che invece il rivoluzionario per eccellenza, il più squinternato di tutti, nell'amministrazione della regione siciliana hanno avuto di dare la... mettere all'apice, a capo dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, chi? Niente un meno francese. Che no, no, una signora, anche lì, una musicista. Il dado, anche lì il dado in cucina, una musicista. Ma che musicista, poveretta, è una musicologa, fammi parlare, è una manager di palestre. Però Giovanni, tenetevi, però esperta di legalità, di musica non ne capisce niente. Tant'è vero che lo slogan è stato 7 note per 7 manette. Vabbè, dal pentagramma al codice penale. Senti, ma dagli un aiuto, perché non telefonano su questo. Fai delle domande troppo difficili. Sì, troppo colto. Ma come troppo colto? Non rispondono, non chiamano. Allora si tratta di un problema di gelosia. Dai. Di una donna che sta dicendo che non è mai possibile accettare su di sé l'accusa di essere sgualdrina, insomma. Allora, un aiuto lo volete? Ambientazione Venezia. Aiuti. Quanti aiuti volete? Questo è il danno di far fare la Divina Commedia a Benigni, poi la gente non capisce più niente. No, mi sembrava, hai capito? Gli ha toccati tutti, Crocetta, sempre... Benigni, Battiato. Senti, non l'hai citato. Senti, abbiamo il tempo per fare una domanda. Giuseppe da Bologna, se non telefonano, ti chiede, caro Secchi, ma la troica giungerà o no? Giuseppe da Bologna. I rumors, diciamo, tra i mercati e la politica dicono che ci sono forti rischi. Vabbè, non lo sa, però non ha notizie di No, ma non, la notizia c'è quando arriva. Però io so prima chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. Mario Draghi. Ma figurati. Però anche questa è una cosa. È un rumor che gira. Parecchio. Anche perché i tedeschi libererebbero così la poltrona del governo della moneta. C'è un coordinamento tra i rumors sulla troica e le politiche coordinate europee per l'Italia, che è la troica, certo, di fatto, e la liberazione, diciamo così, di quella casella di potere in Oggi. Nasceva Sandro Pertini. Sentiamo le sue parole all'epoca del terremoto dell'Irpinia. Qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani devono sentirsi mobilitati. per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. Perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai viti. Dopo il giornale radio con Marina Milone raccontiamo la storia del presidente partigiano, un uomo molto amato con un carattere difficile che ha cambiato lo stile del Quirinale.